Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, vabbè, iniziamo! No, non è... Said I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun. But if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. Ed eccoci qua, ben ritrovate, ben ritrovati su Nervature. Questa è Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, dal quale ci potete ascoltare in streaming, altrimenti ci potete ascoltare anche sulle frequenze AM, sulle 13.59 in area fiorentina. Dal sito invece trovate anche tutti i vari podcast e altre informazioni utili come i contatti, quindi vi invito veramente a spulciarlo perché c'è tante belle cosine. Che dire, oggi è lunedì 27 aprile, Nervature, la trasmissione vi parla di piante, giardinaggio, botanica e quello che capita. E quest'oggi, infatti mi cheto fra pochissimo, vi lascio alla prima lettura del nuovo audiolibro che vi porto qui su Nervature. Si tratta di Tistù e i pollici verdi. È un libro scritto da Maurice Druon, nel 1957. In realtà però la versione che ho qui in mano è una riedizione del 2023, è molto bella perché c'è un sacco di grafiche veramente elaborate, super belle, super poetiche, di Lucia Scuderi, Scuderi direi sì. Quindi è un libro apparentemente per bambini, uno di questi libri che sembrano tra le letture della buonanotte, magari lo possono anche essere, ma che in realtà contengono tantissime riflessioni e messaggi anche a mio parere molto molto profondi. Quindi spero che apprezziate questa lettura. E oltretutto, questa appunto sarà la prima puntata, ne seguiranno altre, e sentirete di sottofondo il mercante musicale, quindi questo è il nome che, che avrà questo formato, insomma, questo musicista che mi accompagna in queste letture, appunto ci accompagna, anzi, improvvisando di tutto e di più tra percussioni e oggetti di fortuna, e dandoci quindi una bella nota di colore di sottofondo. Vi lascio quindi alla lettura e ci risentiamo settimana prossima, sempre lunedì alle 19, con Nervature. Ciao ciao! Capitolo 1, dove l'autore fa qualche riflessione a proposito del nome di Tistù. Tistù è un nome strano che non si trova in nessun calendario, né in Francia né altrove. In nessun paese c'è un San Tistù. Eppure esisteva un bambino che tutti chiamavano Tistù. E qui bisogna aggiungere qualche spiegazione. Un giorno, quando era appena nato e pareva poco più che una pagnottella nella cesta di un fornaio, si presentarono in chiesa una madrina dai guanti lunghi e un padrino dal cappello nero per annunciare al sacerdote che quel bambino si chiamava François Baptiste. Quel giorno, come capita alla maggior parte dei bambini nella stessa circostanza, il piccoletto aveva protestato e urlato ed era diventato tutto rosso. Ma i grandi, che non capiscono un bel niente di neonati che protestano, avevano sostenuto che quel bambino si chiamava senza dubbio François Baptiste. Dopodiché, la madrina dai guanti lunghi e il padrino dal cappello nero lo avevano rimesso nella culla e a quel punto era successa una cosa strana. I grandi avevano cominciato a chiamarlo Tistù, quasi che a un tratto non riuscissero più a pronunciare quel nome che avevano scelto loro stessi. La cosa, si dirà, non è poi così rara. Quanti bambini e quante bambine ci sono che risultano all'anagrafe o in chiesa col nome di Massimiliano, di Susanna, di Agnese o Giovanni, e che tutti chiamano invece Max, Susi, Ines, Gianni. Il che vuol dire semplicemente che gli adulti non sanno come ci chiamiamo veramente e non sanno neppure da dove veniamo, perché siamo venuti al mondo, né quello che ci si spetta fare, anche se pretendono di saperlo. I grandi hanno le loro idee belle fatte su qualsiasi cosa e se ne servono per parlare senza pensare. Ma le idee belle fatte di solito non sono ben fatte. Sono state pensate tanto tempo prima, non si sa più nemmeno da chi, e ormai sono consumate. Ma siccome ce n'è tante, buone per ogni occasione, è facile cambiarle spesso. Ora, se noi nasciamo solo per diventare grandi come tutti gli altri, le idee belle fatte trovano facilmente posto nella nostra testa man mano che si cresce. Ma se siamo venuti sulla Terra con un compito particolare che ci spinge a osservare bene il mondo che ci circonda, la cosa non è più così semplice. Le idee belle fatte si rifiutano di stare dentro le nostre teste. Escono dall'orecchio sinistro non appena entrano da quello destro e allora cadono a terra e si rompono. Ecco perché ogni tanto riserviamo qualche brutta sorpresa ai nostri genitori e a tutti i grandi che si aggrappano alle loro famose idee. Ed è proprio quel che è capitato al bambino che avevano chiamato Tistù, senza chiederne il suo parere. Capitolo 2, dove si presentano tutti in una volta a Tistù, i suoi genitori e la casa che brilla. Tistù aveva i capelli biondi con i riccioli sulle punte. Provate a immaginare dei raggi di sole che colpendo la terra si siano avvitati in tanti piccoli boccoli. Tistù aveva gli occhi grandi e azzurri e le guance rose e fresche. Tutti volevano baciarlo. Infatti i grandi, soprattutto quelli con le narici larghe e nere, le rughe sulla fronte, i peli nelle orecchie, non fanno che sbaciucchiare i bambini dalle guance fresche. Secondo loro, ai bambini fa piacere, ma è un'altra di quelle idee belle fatte. La verità è che fa piacere a loro, ai grandi, e che i bambini, dalle guance fresche, sono davvero gentili a concedere questo piacere. Chiunque vedeva Tistù esclamava: «Oh, che bel bambino! ma Tistù non se ne vantava. La bellezza era per lui una cosa naturale e anzi si stupiva che gli uomini, le donne e i bambini non fossero tutti come lui e i suoi genitori. Perché va detto che i genitori di Tistù erano entrambi bellissimi e a furia di vederli si era abituato a pensare che essere belli fosse una cosa normale e che la bruttezza fosse anzi un'eccezione o un'ingiustizia. Il padre di Tistù, che si chiamava Signor Padre, aveva i capelli neri accuratamente fissati con la brillantina. Era alto, molto ben vestito, non aveva mai un granellino di polvere sul bavero della giacca e profumava di acqua di colonia. La signora madre era bionda ed esile. Aveva le guance morbide come la pelle dei fiori, le unghie rose come petali di rosa e quando usciva nella sua stanza si spandeva tutto intorno un profumo di fiori assortiti. A dire il vero, Tistù non era certo da compatire, poiché oltre al signor padre e alla signora madre, che aveva tutti per sé, godeva pure della loro immensa fortuna. E difatti, lo avrete già capito, il signor padre e la signora madre erano ricchissimi. Abitavano in una casa magnifica a più piani, con un portico, una veranda, uno scalone centrale, una scala più piccola, grandi finestre allineate in fila per nove, torrette coi cappelli a punta e tutto intorno un giardino meraviglioso. In ogni stanza della casa c'erano tappeti così spessi e così morbidi che ci si poteva camminare sopra senza fare il minimo rumore. Per giocare a nascondino erano una meraviglia e anche per correre senza pantofole, cosa proibita, tant'è che la signora madre diceva sempre «Tistù, mettiti le pantofole, non prendere freddo!» Ma Tistù non aveva mai avuto un raffreddore, questo proprio grazie a quei grossi tappeti. E poi c'era la ringhiera del grande scalone, una ringhiera d'ottone bella lucida, un'enorme S maiuscola tutta ricurva, che partiva dalla cima della casa e cadeva giù come un fulmine dorato sulla pelle d'orso stesa sul pavimento del pian terreno. Quando nessuno lo vedeva, Tistù montava a cavalcioni sulla ringhiera e si lanciava in discese vertiginose. La ringhiera era il suo scivolo personale, il suo tappeto volante, il suo sentiero magico che Carolus, il domestico, si affannava a tirare a lucido tutte le mattine. In effetti, il signor padre e la signora madre avevano la passione per tutto ciò che brilla, perciò gli altri si davano un gran da fare per accontentarli. Il barbiere, grazie alla brillantina di cui si è detto, era riuscito a modellare la capigliatura del signor padre come una calotta di raso lucente che suscitava l'ammirazione di tutti. Le scarpe del signor padre erano così ben incerate e lustrate che parevano fare scintille a ogni suo passo. Le unghie rose della signora madre, lucidate ogni giorno, brillavano come 10 finestrelle al levar del sole. Al collo della signora madre, così come alle orecchie, ai polsi e alle dita, Scintillavano collane, orecchini, braccialetti e anelli di pietre preziose e quando la sera usciva per andare a teatro o a un ballo, tutte le stelle della notte sembravano offuscarsi al suo passaggio. Carolus il domestico, grazie a una certa polvere di sua invenzione, aveva fatto della ringhiera il capolavoro che sapete. E di quella stessa polvere si serviva per lucidare i pomelli delle porte, i candelabri d'argento, i cristalli dei lampadari, le saliere, le zuccheriere e le fibbie delle cinture. Quanto alle 9 automobili che sonnecchiavano nel garage, ci volevano quasi gli occhiali da sole per guardarle. Quando si muovevano tutte insieme per le vie della città, la gente si fermava a lungo i marciapiedi. Pareva la galleria degli specchi in parata. «Ma è Versailles!» esclamavano i più istruiti. I distratti si levavano il cappello pensando che si trattasse di un funerale. Le ragazze vanitose ne approfittavano per specchiarsi sulle portiere e incipriarsi il naso. Nella scuderia, invece, stazionavano 9 cavalli, uno più bello dell'altro. La domenica, quando avevano visite, i cavalli venivano sistemati in giardino per abbellire il paesaggio. Il gran Morello stava sotto la magnolia in compagnia della sua bella giumenta. Il pony Ginnasta prendeva il suo posto accanto al gazebo. Davanti alla casa, sul prato verde, si schieravano i 6 cavalli normanni, una razza dal pelo rossiccio assai rara, di cui il signor padre andava orgogliosissimo. I garzoni della scuderia, in tenuta da fantini, trottavano da un cavallo all'altro muniti di spazzole, poiché anche le bestie dovevano essere tirate al lucido, specialmente la domenica. «I miei cavalli devono brillare come gioielli», diceva il signor padre ai suoi fantini. Per quanto sfarzoso era un uomo buono, perciò tutti erano sempre pronti ad obbedirgli e i fantini spazzolavano con tale cura i cavalli, 9 peli in un senso e 9 peli nell'altro, da farli sembrare degli enormi rubini perfettamente sfaccettati. E poi intrecciavano le criniere e le code con la carta argentata. Tistù adorava tutti quei cavalli. Di notte sognava di dormire in mezzo a loro sulla paglia dorata della scuderia e di giorno andava continuamente a trovarli. Ogni volta che mangiava un cioccolatino conservava accuratamente la carta argentata per poi darla al fantino che si occupava di accudire Ginnasta, il pony. Di tutti gli animali, Ginnasta era infatti il suo preferito, il che era naturale, visto che Tistù e il pony avevano quasi la stessa statura. Vivendo così nella casa che brilla insieme al padre, uomo brillante, e alla madre, fiore tra i fiori, e circondato da begli alberi, belle auto e bei cavalli, Tistù era un bambino molto felice. Capitolo 3. Dove si impara a conoscere Miralà e la fabbrica del signor padre. Miralà, Così si chiamava la città dove era nato Tistù. Doveva la sua fortuna e la sua fama alla grande casa e soprattutto alla fabbrica del signor padre. A prima vista, Miralà era una città come tutte le altre, con la sua chiesa, la prigione, la caserma, la tabaccheria, la drogheria, la gioielleria. Eppure quella città, come tutte le altre, era nota al mondo intero, perché era proprio a Miralà che il signor padre fabbricava i suoi cannoni molto richiesti. Cannoni di tutti i calibri, cannoni grandi, cannoni piccoli, lunghi, portatili, con le ruote, cannoni per i treni, per gli aerei, per i carri armati e le navi, cannoni per mirare sopra le nuvole o sott'acqua e persino un modello di cannoni super leggeri, fatti per essere trasportati a dorso di un mulo o di un cammello in quei paesi dove la gente non sgombra il terreno dai sassi e le strade non arrivano proprio. In poche parole, il signor padre era un mercante di cannoni. Da che Tistù era giunto all'età di ascoltare e di intendere, si era sempre sentito ripetere: «Tistù, ragazzo mio, il nostro è un commercio florido, i cannoni non sono come gli ombrelli che nessuno vuole quando c'è il sole e neppure come i cappelli di paglia che restano nelle vetrine quando l'estate è piovosa. I cannoni si vendono con qualunque tempo». Certi giorni che Tistù non aveva fame, la signora madre lo portava alla finestra e gli indicava lontano, lontano, in fondo al giardino, molto oltre il gazebo dove c'era il pony ginnasta, la fabbrica monumentale di proprietà del signor padre. La signora madre contava insieme a Tistù le 9 ciminiere che sputavano fuoco tutte insieme. Poi lo ripartava davanti al piatto e gli diceva: «Mangia la minestra, Tistù, così ti fai grande. Un giorno sarai tu il padrone di Miralà. Fabbricare cannoni è molto faticoso e in famiglia non ci servono fuscellini». Nessuno infatti metteva in dubbio che un giorno Tistù avrebbe preso il posto del signor padre al timone della fabbrica, così come il signor padre aveva preso il testimone dal signor nonno, il cui ritratto, col volto incorniciato da una barba lucente e la mano sul fusto di un cannone, era appeso alla parete del grande salone. E allora Tistù, che non era un bambino cattivo, si sforzava così di mangiare la sua minestra. Back, baby, and please don't go, 'cause the way I love, child, you never know. We'll come back, baby, yeah, child, let's start over one more time. Well, I admit, baby, that I was wrong, but don't you know, baby, you've been gone too long. We'll come back, baby, yeah, child, let's start over just one more time. one of these mornings. Well, it won't be long. You gonna look for me, baby? Try you know I'll be gone. Welcome back, baby. Yeah, child. Let's start over just one more time. Well, if I can holler like some old mighty jack, well, I call up on that mountain, try to call my baby back. Yeah, we'll come back, baby. Yeah, child. Let's start over. Baby, and please don't go, 'cause I, you know I love you, I love you till the truth. Welcome back, baby, yeah, child, let's start over just one more time, just one more time. If I had another chance now, baby, try it one more time. Capitolo 4, dove Tistù viene mandato a scuola, ma non ci resta a lungo. Fino all'età di 8 anni, Tistù ignorò l'esistenza della scuola. La signora madre, infatti, aveva preferito avviare lei stessa all'istruzione del figlio, insegnandogli i rudimenti della lettura, della scrittura e dell'aritmetica. I risultati, bisogna ammetterlo, non erano stati niente male. Grazie a dei bei cartelloni appositamente acquistati, la lettera A si era fissata nella testa di Tistù sotto forma di un asino, poi di un'allodola e poi di un'aquila. La lettera B sotto forma di biglia, di bolla e poi di boccia e così via. Per far conto si era fatto ricorso a delle rondini posate sui cavi della luce. Tistù non solo aveva imparato a sommare e a sottrarre, ma sapeva anche dividere, per esempio 7 rondini su 2 fili che facevano 2 rondini e mezzo su ciascun filo. In che modo poi una mezza rondine potesse posarsi su un cavo elettrico è tutta un'altra faccenda che nessun calcolo ha mai saputo spiegare. Quando Tistù compì 8 anni, la signora madre ritenne di aver portato a termine il suo compito e decise di affidare il figlio a un vero maestro. Perciò gli comprarono un grembiule a quadretti e molto grazioso, un paio di stivaletti nuovi che gli facevano un po' male, una cartella, un astuccio nero con i decori giapponesi, un quaderno a righe grandi, uno a righe piccole, e lo fecero accompagnare da Carolus, il domestico, alla scuola di Miralà, che aveva un'ottima reputazione. Tutti dunque si aspettavano che un bambino così ben vestito, con dei genitori così belli e ricchi, e già capace di dividere per 2 e per 4 le rondini, in classe avrebbe fatto meraviglie. Ma ahimè, la scuola ebbe su Tistù un effetto inaspettato e disastroso. Non appena il lento corteo delle lettere cominciava a marciare spedito sulla lavagna nera o a srotolarsi la lunga catena dei 3x3, 5x5, 7x7, Tistù avvertiva un formicolio all'orecchio sinistro e poco dopo crollava in un sonno profondo. Eppure non era certo stupido, né tantomeno pigro, stanco. Era pieno di buona volontà. «Non voglio dormire, non voglio dormire!» si ripeteva Tistù. Allora fissava gli occhi sulla lavagna e incollava le orecchie alla voce del maestro. Ma ecco che tornava quel leggero formicolio. Lui cercava di lottare contro il sonno con tutti i mezzi. Canticchiava pian piano una canzoncina che si era inventato apposta. Un quarto di rondine, fa l'ala o la zampa, fortuna di torta, cena e tanta. Fa 4 fette a me e niente, riporto a te. Ma non c'era verso. La voce del maestro si trasformava in una ninna nanna. Il buio calava sulla lavagna, il soffitto gli sussurrava «Dormi bene». E l'aula di Miralà diventava la stanza dei sogni. «Tistù!» strillava un tratto il maestro. «Ah, non l'ho fatto apposta, signore!» rispondeva Tistù svegliandosi di soprassalto. «Fa lo stesso! Ripeti tutto quello che ho detto. 6 torte diviso 2 rondini. 0!» Primo giorno di scuola Tistù tornò a casa con le tasche piene di zeri. Il secondo giorno, per punizione, dovette restare in classe 2 ore in più, il che significò altre 2 ore di sonno. Alla fine del terzo giorno, il maestro consegnò a Tistù una lettera per il padre. In quella lettera il signor padre ebbe il grande dolore di trovare scritte queste parole. «Signore, suo figlio non è come gli altri. È impossibile per noi tenerlo a scuola». E la scuola riconsegnava così Tistù ai genitori. Capitolo 5. Dove l'ansia grava sulla casa che brilla e si decide un nuovo metodo educativo per Tistù. Le L'ansia è un brutto pensiero che afferra la testa al risveglio e la tiene stretta per tutto il giorno. L'ansia si serve di qualsiasi mezzo pur di entrare nelle stanze. Si insinua con il vento tra le foglie, cavalca il canto degli uccelli, corre lungo il filo del campanello. Quella mattina, mira là, l'ansia si intitolava «Non è come gli altri». Il sole non si decideva a sorgere. «È un vero peccato svegliare quel povero Tistù», si diceva. «Appena aprirà gli occhi si ricorderà di essere stato cacciato da scuola». Allora il sole si fece meno intenso e spedì sulla terra appena qualche raggio, da poco, ben avvolto nella nebbia. Il cielo sopra Miralà si fece grigio. L'ansia, però, conosce più di un trucco e trova sempre un modo per farsi sentire. Difatti, si insinuò nella sirena della grande fabbrica. In tutte le case la sentirono urlare. «Non è come gli altri! Non è come gli altri! Tistù non è come gli altri!» E l'ansia penetrò pure nella stanza di Tistù. «Che ne sarà di me?» si chiese. Sprofondò la testa nel cuscino, ma non riuscì a riaddormentarsi. Era davvero avvilente, bisognava ammetterlo. Riuscire a dormire così bene in classe e così male nel proprio letto. Amélie, la cuoca, borbottava tra sé mentre accendeva i fornelli. «Non è come gli altri il nostro Tistù? Chi lo dice? Ma ha due braccia, ha due gambe. E allora?» Carolus, il domestico, mentre si accaniva a lucidare la ringhiera dello scalone, ripeteva: «Non è come gli altri, Tistù! Ma come permettono di dire?» Carolus, occorre precisarlo, aveva un lieve accento straniero. Nella scuderia i fantini mormoravano tra loro. «Non è come gli altri, un bambino così gentile, ma da non credere!» E siccome i cavalli condividono le ansie degli esseri umani, fin anche i puro sangue rossicci sembravano nervosi, mentre scalciavano contro il recinto e strattonavano le biglie, tre crini bianchi spuntarono di colpo sulla fronte di Bella Giumenta. Soltanto Ginnasta il Pony sembrava estraneo a quell'agitazione. Brucava l'erba con aria paciosa, scoprendo i trifogli stampigliati su dei bei denti bianchi come fossero tanti assi di fiori. Ma tranne quel pony dall'aria indifferente, tutti in realtà si chiedevano cosa bisognasse fare con Tistù. E quelli che più di tutti se lo chiedevano preoccupati erano i suoi genitori. Davanti allo specchio il signor padre si impomatava i capelli senza il minimo compiacimento, solo per abitudine. «Questo bambino, a quanto pare, è più difficile da tirar su che un cannone», si diceva. E intanto la signora madre, rosa pallida sui cuscini rosa, lasciava scivolare una lacrima nel suo caffè latte. «Ma se in classe si addormenta, come si fa a dargli un'istruzione?» chiese al signor padre. «La distrazione non può essere un male incurabile», rispose lui. «Del resto i sogni sono meno pericolosi della bronchite», proseguì la signora madre. «Comunque sia, bisogna che Tistù divenga un uomo», disse il signor padre. Dopo questo scambio di parole chiare, rimasero un momento in silenzio. «Ma che fare, pensavano ciascuno per conto suo. Il signor padre era un uomo dalle decisioni nette e rapide. Dirigere una fabbrica di cannoni è una cosa che tempra il carattere. D'altra parte, voleva molto bene a suo figlio. «Ho trovato!» «È molto semplice», dichiarò. «Tistù a scuola non impara nulla. Sono i libri che lo fanno addormentare, perciò, beh, leviamogli di torno i libri. Sperimenteremo su di lui un nuovo metodo educativo. Dal momento che non è come gli altri, beh, imparerà quel che deve sapere tramite l'osservazione diretta. Gli insegneremo a conoscere le rocce, il giardino, i campi, standoci a stretto contatto. Gli spiegheremo come funziona la città, la fabbrica e tutto quello che potrà aiutarlo a diventare grande. Del resto, la vita è la migliore scuola che ci sia. E poi verificheremo i risultati». La signora madre approvò con entusiasmo la decisione del signor padre. Quasi rimpianse di non avere altri bambini sui quali sperimentare quel sedicente metodo educativo. Per Tistù fu la fine delle merende trangugiate in fretta, delle cartelle da trascinare, dei banchi su cui gli crollava la testa e delle tasche piene di zeri. Stava per cominciare una nuova vita e il sole tornò così a splendere. Capitolo 6. Dove Tistù prende una lezione di giardinaggio e scopre di avere i pollici verdi. Tistù si mise il cappello di paglia per andare alla sua prima lezione di giardinaggio. Il signor padre aveva ritenuto sensato cominciare da lì la sperimentazione del nuovo metodo educativo. Una lezione di giardinaggio era, in fin dei conti, una lezione sulla terra, quella su cui camminiamo, che produce le verdure che mangiamo, le erbe di cui nutriamo gli animali, fin tanto che non diventano abbastanza grandi da poterceli mangiare. La terra, aveva affermato il signor padre, è l'origine di tutto. «Basta che non mi torni il sonno, però», diceva Tistù andando a lezione. Nella serra, avvisato il signor padre, Mustacchio, il giardiniere, aspettava il suo allievo. Mustacchio era un vecchio solitario, poco loquace e non sempre cordiale. Dalle narici gli spuntava una foresta incredibile, del color della neve. Come si fa a descrivere i baffi di Mustacchio? Erano un'autentica meraviglia della natura. Nelle giornate ventose, quando il giardiniere si aggirava con la pala in spalla, erano magnifici a vedersi. Pareva che due fiamme bianche gli uscissero dal naso andando a sbattergli sulle orecchie. Tistù voleva molto bene al giardiniere, ma ne aveva un po' paura. «Buongiorno, signor Mustacchio», disse Tistù sollevando il cappello. «Ah, eccoti qua», rispose il giardiniere. «Ebbene, vediamo di cosa sei capace. Guarda, qui c'è un mucchio di terriccio e questi sono dei vasi per i fiori. Allora, per cominciare, devi riempire i vasi di terra. Poi ci infili dentro un pollice e fai una fossetta al centro. Allora, man mano li sistemi lungo il muro. Dopodiché, dentro le fossette, metteremo i semi adatti. Le serre del signor padre erano magnifiche e degne di tutto e per tutto del resto della grande casa. Al riparo delle vetrate splendenti c'era un'aria calda e umida che si manteneva grazie a un enorme calorifero. Le mimose fiorivano in pieno inverno, le palme importate dall'Africa prosperavano e si coltivavano i gigli per la loro bellezza, le tuberose e i gelsomini per il loro profumo e finanche le orchidee, che senza essere belle né profumate hanno una qualità del tutto inutile che chiamiamo però rarità. Mustacchio era il padrone incontrastato di quella porzione della proprietà. Quando di domenica la signora madre accompagnava le sue amiche in visita alle serre, il giardiniere col suo grembiule nuovo si piantava sulla porta col fare amabile e ciarliero di una zappa. Al minimo tentativo di una di quelle signore di toccare i fiori, o anche solo di sentirne il profumo, Mustacchio piombava sulla malcapitata dicendo «Non sia mai! Non me li vorrà mica uccidere o strangolare o soffocare, cara signora!» Fatto sta che mentre Tistù svolgeva il compito assegnatogli da Mustacchio, ebbe una bella sorpresa. Quel lavoro non lo faceva addormentare. Anzi, era divertente. Tistù trovava che il terriccio avesse un buon odore. E poi bastava un vaso vuoto, una palata di terra, un buco col pollice al centro. Beh, il gioco era fatto. Si passava al successivo. E così i vasi si allineavano lungo il muro. Mentre Tistù proseguiva con grande diligenza, Mustacchio si aggirava piano piano per il giardino. Quel giorno Tistù scoprì perché il vecchio giardiniere parlava così poco con la gente. Lui parlava tutto il tempo coi fiori. Si capisce che se un uomo si mette a fare i complimenti a ciascuna rosa di ogni cespuglio, a ciascun geranio di ogni pianta, di voce poi gliene resta assai poca per dire «Buonanotte, signore» o «Buon appetito, signora» o «Salute» a qualcuno che gli starnutisce davanti. Tutte quelle cose, insomma, che fanno dire alla gente «Che persona a modo!» Mustacchio, infatti, andava da un fiore all'altro, preoccupandosi della salute di tutti quanti. Oh, sempre dispettosa tu però, Rosatea. Ma ti diverti a tenere i boccioli nascosti, per farli fiorire quando nessuno se l'aspetta, E tu, Convolvolo, ma che ti credi di essere, il re delle montagne, arrampicandoti così sul mio steccato? Ma guarda tu! Poi a un certo punto si girò verso Tistù e gli gridò da lontano. Allora, ce la fai per oggi o ci tocca aspettare domani? Non si arrabbi, maestro, mi mancano solo 3 vasi, rispose Tistù, che si affrettò a finire e raggiunse Mustacchio dall'altra parte del giardino. Ecco fatto, disse. Bene, allora andiamo un po' a vedere, va? Fece il giardiniere. Si avviarono piano piano, perché Mustacchio, passando, ne approfittava per complimentarsi con una grossa peonia del suo bell'aspetto o per incoraggiare un'ortensia a farsi azzurra. A un tratto si fermarono sbalorditi, sconvolti, stupefatti. Cosa vedo? Sto forse sognando? E Mustacchio così si stropicciò gli occhi. Vedi anche tu quello che vedo io? Certamente, signor Mustacchio. A pochi passi da loro, lungo il muro, tutti i vasi riempiti da Tistù erano fioriti in 5 minuti. si trattava certo di una fioritura timida, eh? Di qualche germoglio pallido, incerto. Altro che! In ogni vaso erano sbocciate delle splendide begonie e tutte insieme formavano un folto cespuglio rosso. Non ci si crede, dice Mustacchio. Ci vogliono almeno 2 mesi per far crescere così le begonie. Un prodigio, è un prodigio! Si comincia con l'osservarlo e poi si cerca di spiegarlo. Tistù a questo punto chiese, se non abbiamo ancora messo i semi, ma questi fiori da dove sbucano, signor Mustacchio? È un mistero, rispose signor Mustacchio. Poi, di colpo, con le sue mani rugose, afferrò le manine di Tistù e disse, fammi vedere i pollici. Si mise a esaminare attentamente le dita del suo allievo, di sopra, di sotto, alla luce, in controluce. Ragazzo mio, disse infine dopo a un'attenta riflessione, ti è capitata una cosa sorprendente e straordinaria. Tu hai i pollici verdi. Verdi? Gridò Tistù, tutto stupito. Ma a me sembrano rosa, eppure, ma abbastanza sporchi, al momento, non dico di no, però mi sembrano rosa, non direi proprio che sono verdi. Certo, tu non puoi vederlo, rispose Mustacchio. Un pollice verde è invisibile. È una cosa che succede sotto la pelle, è quella che si dice una dote nascosta. Solo uno specialista se ne può accorgere. E siccome io sono uno specialista, ti assicuro che hai i pollici verdi. Signor Mustacchio, ma a che servono i pollici verdi? Ah, è una dote meravigliosa, rispose il giardiniere, un vero dono dal cielo. Devi sapere, allora, che i semi sono dappertutto, ok? Non stanno solo nella terra, ma ce n'è sui tetti delle case, sui davanzali delle finestre, sui marciapiedi, sugli steccati, sui muri. Miliardi di semi che non servono a niente. Se ne stanno lì, così, in attesa che magari una folata di vento li spinga in un campo, in un giardino. Spesso muoiono, infatti, stretti tra 2 sassi, senza potersi trasformare in fiori. Ma se prima che muoiano, se un pollice verde si posa su uno di quei semi, ovunque esso si trovi, il fiore sboccia immediatamente. Del resto, ne hai la prova sotto gli occhi. I tuoi pollici hanno scoperto dentro la terra i semi di begonia. Ed ecco il risultato. Credimi, io ti invidio. Col mio mestiere mi avrebbe fatto proprio comodo avere i pollici verdi. Ma Tistù non sembrava affatto entusiasta della scoperta. Ma diranno di nuovo che non sono come gli altri? La cosa migliore, rispose Mustacchio, non è farne... è farne così, senza farne parlare a nessuno, rimane fra noi. A che serve suscitare curiosità o gelosie? Le doti nascoste rischiano di procurarci sempre dei guai. Tu hai pollici verdi, questo è certo. Ebbene... tientelo per te e che questo resti un segreto fra noi. Sul taccuino fornito dal signor padre e che Tistù doveva firmare alla fine di ogni lezione, il giardiniere Mustacchio scrisse semplicemente: il ragazzo mostra una buona propensione al giardinaggio.